CQ10, c'è qualcuno qua? Chi è avanti? Papà Rosso, ubriacone fragico, ti hai comprato il digitale, a me non mi ha detto nulla. Seia. Ehi, vabbè, abbiamo diffuso la notizia. Più che altro per collaudare, ma no. Non ti perdi niente, mi. Sei solo lì come un cane. Io pomponio, pomponio io. Ma non c'è il gusto della... così che... Beh, noi l'abbiamo preso per sperimentare tutto lì. Poi me li posso anche rivendere. Quanti ne hai presi? Due portatili, uno a lui, uno a me. E quanto l'hai pagati? Perché io uno me lo voglio prendere. Il prezzo è segreto, il tipo di digitale è segreto, le frequenze sono segrete. E vai a panculo, cazzo, segrete. Ehi, è una cosa che ho preso per parlare con Antonello e Po. Ma per fare sperimentazioni, poi le posso anche far fuori, mettere in vendita. Le prove in realtà le abbiamo già fatte e quindi non c'è nemmeno gusto. Arrivo a Polo Torres, non so se mi spiego. Ma col gommino? Beh, se pomponi l'antenna esterna sì, arriva col gommino, poi l'antenna in macchina non le parliamo. Se allora me la compro. Guarda che anche l'analogico ci arriva. Io avevo l'Intec MP50-50, il pomponio con 4 watt arrivava a 9, dov'è Sandro, o meglio dove era Sandro? Ehi, ma ho telefonato a pomponio ma è irraggiungibile mi. Antonello, ci sei? Ma deve essere in qualche cantina, amico, qualche vindiolo. Ti volevo chiedere se volevo uscire, così a farci una passeggiata, ma non è raggiungibile il numero. Sì, no, non prenderà, chissà dove, in quale vindiolo è. Eia, per quello ho chiamato qua, vedete, Antonello, ci sei? Ho chiamato, ma niente. E vabbè. Ancora addormentato, mi sono fatto una pisolino. E io lo stesso, adesso alle 6 deve venire una persona e c'è un appuntamento qua. Eia, un CB? No, negativo. Eia, comunque il discorso che ha fatto Gianfranco ieri non fa una grincia, come ti era stato detto, tu continua a modulare, c'era omologato. C'hanno problemi? Chiamino le scoposte che li controllano l'antenna TV, capito? E se sono male, cioè messe male col cavo pieno d'acqua, la colpa è anche loro, si pagano l'intervento. Come ho detto una volta io a uno che telefonava, ho detto ma chiamali, dice ti mando la polizia postale. E io ho detto ma chiamali, cazzo diavolo. Cosa credeva di farmi dispetto? Chiamali, così ti faccio vedere l'omologato e l'antenna. E poi lì si controlla anche l'impianto suo, che sicuramente sarà... Gli avevi spiegato bene, quindi tu da te non disturbi, il problema è degli altri. Io cosa ti ho sempre detto, il problema non è il tuo. No, perché poi l'antenna mia della TV è sul palo di questo qui, che io disturbo. Come mai a me non mi disturbo? C'ho l'amplificatore, c'ho l'alimentatore qua, c'ho l'amplificatore, lì si burro rumoso, si riblata quando la vedo io. Vabbè, adesso no, perché sennò sarebbe venuto a rompermi le scatole. Cazzo, ma c'ho due filtri anti-guai, uno dietro l'altro, mi. Eia, ricordati, quello che ti ho dato io attenua di 80 dB, 80 decibel, sempre che sia vero, mentre quello ZG pare sia 20 o 30, ma di solito non va più di 20. Sì, sì, il discorso di Gianfranco non fa una grinza, vai sul tranquillo che lui queste cose le sa. Sì, ma poi, Giacomo, dicono che ho due filtri che non posso disturbare, si mettono a ridere qui. senso a ridere? In che senso a ridere? E che io disturbo a questo qua, io lo disturbo perché c'ha l'antenna messa male, e così quello lì in fondo alla via, quello lì lo disturbo perché c'ha l'antenna vecchia messa male. Inutile che loro dicono che l'hanno messa nuova, non è vero, perché se io lo disturbo, ve lo monogatto, vuol dire che c'ha qualcosa che non va, avrei disturbato tutti quanti, se proprio disturbava la mia antenna, capito? Sì, Nathalie, sono discorsi che abbiamo già fatto e rifatto tante volte. E poi bisogna vedere anche nuova come è stata messa, da chi è stata messa. Perché per esempio qui di fronte il tecnico aveva fatto un pasticcio, aveva fatto, oltre che gli ha fatto pagare 300 euro, aveva fatto un pasticcio. Infatti poi è ritornato, ha risolto il pasticcio che aveva fatto e infatti io qui di fronte, da quello con la barba, non disturbo. Infatti, e non è quello che ti volevo dire io. Avrei disturbato tutto il quartiere, se quella di fronte, quell'altro di fronte avrei disturbato, tutti. Sì, sì, ma te l'ho detto Nathalie. Non è colpa tua, te l'appoggio, dai, te la spingo. Parola di gringo. Questa è bella. Invece se venivi così ti pigliavi i soldi. Nathalie, sarei venuto, io volevo uscire in macchina, ho detto ma usciamo così per non scendere a piedi, Nathalie, che oggi non me la sentirei. Ho detto ma usciamo in macchina, facciamo Natalino, ritiriamo i soldi. No, così gliel'ordino, li verso in banca, l'ordino, poi appena arriva il filtro suo, nuovo, bello luccicante, mi riprendo il mio vecchio, che tutto è visto, no? Si scolorisce in fretta quella scritta, che c'ha, si scolorisce molto in fretta, passano le dita. Ma fotti, te ne tieni il nuovo, che cazzo te ne fotti? No, no, Nathalie, tu lo stai comprando nuovo, è giusto che sia nuovo. E poi so che il mio è collaudato e funziona, magari a te ti capita quello difettoso. È per quello che io non te lo voglio dare questo. Te l'ho detto, dai, te lo dico di nuovo. No, ma guarda che è raro che siano, sono talmente semplici, talmente elementari che non credo, non capita che sia difettoso, dai. Te l'ho detto, tu ti pigli giustamente il nuovo perché hai pagato la merce come nuovo, a me mi ridai il mio, tutto lì. Però poi mamma non è voluta uscire oggi, è solo oggi. Già passerò in macchina io, dai, perché a piedi un po' mi costa, Poi sono in bolletta, non ho più biglietti del tram, capito? Vabbè, come tu desideri. Io ti aspetti dopo le 6:30 che viene questa persona, al limite vengo e ti riporto, non c'è problema, capito? Ma poi è un problema per te a parcheggiare, tu aspetta che passi io, dai. Tanto prima o poi mamma la convinca a uscire, andare a Oceana a fare la passeggiata, se no è tutta la sera con questo Geriscotti. Che poi Geriscotti inizia alle 7:15, mi ha voglia a uscire nel pomeriggio, andare dal gruppo, da Oceana, farci più giri. Almeno passiamo in macchina e i miei muscoli ringraziano. Guarda, io sono tutta la mattina camminando e cose, prima mi tirava il nervo della gamba. Guarda, mi faceva male veramente stamattina, perché sono dovuto andare a prendere il pane, sono dovuto andare a fare tante cose. E sono andato a prendermi 3 paia di Nike che me lo ha regalato mio cugino. No, qui. 3 paia, cazzo, e lì c'è valore, me, se sono veri, meno che non siano di chi si Nike napoletane. Con la scatola Nike sono addirittura. Sì, no, ma saranno originali, ci mancherebbe. Però quei furfanti, ma ormai sei furfanti, non sono i napoletani, sono i cinesi. Allora ti copiano gli Yaesu, te li fanno uguali, con le stesse confezioni, ti copiano le antenne Diamond, proprio con la stessa confezione, solo che da piccoli particolari magari te ne accorgi, microscopici particolari. Guarda, i cinesi stanno inventando i nuovi napoletani. hanno sempre copiato i cinesi. No, questo nella pianta della scarpa c'è scritto Nike proprio, tre pagi, perché l'ho trovato l'altro, è anche mio compare questo, mi. C'è una scatola proprio, cioè la scatola è marcata Nike, nella pianta della scarpa c'è proprio Nike scritto, non è che... Sì, ma ci credo, perché dovrei credere il contrario? L'importante è che siano comode, casomai metti una soletta, una di quelle cose anatomiche, mi, capito? E cammini anche meglio. Quelle solette che ammortizzano me, che proprio sembra di essere in pantofole. E infatti mi sa che me le compro, anche se queste sono di lusso le scarpe, cammino benissimo, perché me l'ho messo un paio adesso, e mi ho tolto gli scarponi che li ho potuti mettere solo da ieri sera, prima c'erano quelle leggere le scarpe, no? Ieri sera siccome stava piovendo mi ho messo gli scarponi. Però stamattina mi faceva male la gamba, tornano. Però camminando ho visto che mi è passato il dolore. Eia, meglio così, dai, meglio così. Perché poi più stai fermo forse peggio fa. Non lo so, dipende. Vabbè, comunque sai cos'è, queste giornate brutte non invogliano uscire, dai, finché c'è il sole magari è più bello uscire, peraltro nel pomeriggio c'era, ma vabbè, già c'è l'occasione, ci sarà l'occasione, non piove sempre qua, anzi dovrebbe, no? Ma non piove. Infatti, ma vediamo un po', adesso io sto aspettando che vengano, che mi devono portare roba, e quindi... Devo aspettare fino alle 6:30. Già mi telefonano e io mi faccio trovare giù. Ehi, ehi. E intanto dove dobbiamo andare, me? Io sono in pigiama ancora, lo sai. Sono in pigiama e sono in pantofole. C'ho la barba lunga. Vabbè, finché sei a casa chi se ne frega, dai. Il cane vuole uscire, se n'è già venuto qua e si è messo sopra le mie gambe. Cazzo, quando si mette a due zampe a camminare ante tovole. Sono belli gli animali, sia cani che gatti. Io naturalmente preferisco il gatto perché è più autonomo, non devi uscire a portarlo. Però il cane è anche più intelligente. Più intelligente il cane, sì. Guarda, a me piacerebbero cani tipo il tuo, mi. Taglia medio-piccola, noghici, pitbull, così, per carità, sono anche pericolosi quelli. Rottweiler, sono cani che li girano le scatole e ammazzano bambini neonati, capito? Mi, ne è scappato uno. È scappato un pitbull in zona piazzetta, no, alla piazzetta. Ha seminato il panico, vabbè, lo dice la nuova, insomma, ha già nato al polpaccio uno di chi si fa niente, mi. Cosa vuoi ti dica? Concetta manco parlare, poveraccia. E mi tocca portarlo a me il cane stasera, lo stesso. Ma influenzata è. E allora, che lì soffre di bronchite asmatica, mi. Subito il primo colpo d'aria che prende la frega. Ma allora o è bronchite o è influenza. Oppure la bronchite è una conseguenza dell'influenza. Mamma si voleva vaccinare. 10 giorni che lo sta dicendo, ancora non ha fatto niente. È meglio che non ne faccia. Una volta mi ha preso cata a forza la dottoressa a farmi questo vaccino, quella che c'avevo prima, che era vicino a casa di Gianni. Beh, mi ha fatto il vaccino e l'ho preso 3 volte l'influenza. Perché, come si dice, i ceppi sono diversi, Natalia. Tu sei vaccinato per un ceppo, no? Proprio per un tipo di... Però ce ne sono altri i ceppi. E cosa devi fare? Ti devi vaccinare 3-4 volte per ogni ceppo. Non si può fare. Almeno non credo. poi sai cos'è, mamma è anziana, è oltre settantenne, quindi può venire una complicazione ai polmoni, meglio che si rivaccini lei. Anzi, la accompagno io, la invito a vaccinarsi, dai. Può darsi che a lei gli attacchi il vaccino, ma a me non mi attacca, neanche a Concetta, amico. Non mi attacca proprio. All'anima. E poi il vaccino stesso può dare i sintomi stessi dell'influenza, lo sai. Perché l'organismo interviene contro i virus morti, no? Che ti inoculano, quindi c'è sempre quella reazione. Però almeno ti immunizza per un ceppo. Ah, sono tutto intasato anch'io di naso. Ti immunizza per un ceppo, ma non per gli altri ceppi. È un macello. Guarda, ieri c'era il film Contagion, o quando era? Ieri pare, non l'hai seguito, no? Aspetta un attimo, faccio vedere una cosa a mia moglie. Ehi, ehi, dai, tanto devo fare una cosa io, dai. Marco, cosa dovevi fare? Andare al gabinetto, ma non è urgente, non è urgente. Ehi, vai, se devi andare, già sono qui. Ehi, poi entreranno gli altri, ieri c'era una bella ruota, poi vedo che a Gianni gli hanno cambiato il turno, dalle 8 alle 3, e quindi di sera può entrare, fortunatamente, dai. Ehi, di mattina non fanno... Ehi, a chiamare però sei... Ehi, tu prova. Ti stavo dicendo, praticamente se lui è di mattina la sera può entrare, perché c'è alle 2, va. Quando arriverà a casa saranno alle 3. Alle 2, sì, può mangiare, riposarsi, farsi una bella pennichella e poi può entrare quando vuole, 5, 6. Sì, stavo ascoltando ieri, ma ero mezzo dormito anche. Ero in stato di shock. Con la copertina, proprio come un vecchio, con la copertina sulle gambe, le pantofole, mamma mia. E tanto ho regalato una stufa di quelle a cherosene all'amica di mia moglie, tanto che ne avevo due, capito? Una grande e una piccola, la piccola la sta lì, che ce l'aveva in cucina, tanto non la stavamo utilizzando, scusi, perché basta questa grande che scalda tutto. Voi avevate una stufa tipo Zibro? Simil Zibro? No, erano Zibro proprio, solo che sono io che le faccio andare a cherosene. Sì, molti la usano a cherosene, costa meno mi. Lo Zibro, un contenitore da 20 litri costa 50 euro, 45-50 euro, dipende quale prendi, anche 40, anche di meno. Se prendi quello rosso ti costa mi pare 38, però puzza quello, puzza un po', l'abbiamo provato e appena sentiva. Noi usiamo quello blu, Zibro blu, che non ha odore. Certo fa un po' di odore all'accensione e allo spegnimento, però poi è completamente inodore. Addirittura hanno fatto Zibro Viola, un'altra formula, però io non l'ho provata, non l'ho ancora provata. E francamente non mi fido a provarlo, perché se poi puzza, buttana non ce lo posso perché è pagato. Beh, lo sai che questo è che lo sai, non puzzano. Oh, perché sai qual è il mio? Quello blu è isoparaffina, non è cherosene, isoparaffina è proprio una cosa diversa. Infatti ho detto magari metto il cherosene e puzza, non so, non mi sono mai fidato, oppure sviluppa un calore diverso o si surriscalda, che ne so. Invece mia zia ha proprio le stufe a cherosene, quelle a cilindro, no? Proprio cherosene, va da Testoni, lo compra e ci mette il cherosene vero e proprio, però lì c'è lo stoppino, lo devi pulire, lo devi accorciare, lo devi curare. Invece la Zibro non devi toccare nulla, si consuma naturalmente durante l'utilizzo, no? Nel corso degli anni. E infatti io non gli ho fatto mai nulla a questa. Forse è una roba, è una stufa. Se ti dirò di più, che noi usiamo quelle a gas, quelle con la bombola, no, tre posizioni, perché la Zibro è molto molto forte. La Zibro la mettiamo solo quando c'è proprio freddo, gelo, e la mettiamo in corridoio. Ci sono le stanze a letto una di fronte all'altra, la Zibro la mettiamo in corridoio davanti alle stanze a letto, quindi scalda leggermente l'una e leggermente l'altra. Se la metti in camera, è piccolina la mia, non è come la mia è piccolina, ma se la metti in camera, c'è 3 kW e ti ammazza dal caldo, proprio ti ammazza dal caldo. L'ho messa solo in corridoio, K. Ma noi ce l'abbiamo qui, io ne avevo anche la piccola, scaldava quanto la grande, uguale. Eia. Vabbè, ma voi avete almeno un locale unico ma più grande, ma sai, la mia camera è... quanti metri è? Boh, 3x4, cioè le stanze singole sono piccole, relativamente piccole, quindi scalda troppo, mentre lì, lì è più adeguata la cosa, vedi? Lì è più adeguata, è più ben distribuito il calore lì. Va, una già basta. Sì, che voglia. Qua vabbè, disperde perché sono, mamma mia, sono tante case, cioè io non ho più che altro, in cucina c'è quella gas, qui in teoria ne posso usare una gas, anche se non mi ricordo più qual è, perché ormai è tutto un casino l'abbiamo fatto. In camera mia ne ho una gas, mamma non ne ha, però gliela porto io quella gas quando necessita. E vabbè. Diciamo che quella mia, la gas l'ho tenuta molto molto molto male, malissimo l'ho tenuta, è tutta macchiata, impolverata, non va bene, non si tiene così quella roba. L'avevamo comprata nuova, sembra vecchia di anni adesso. Vabbè, comunque comprando la nuova costano 80 euro, 80, le ho viste della, boh, la marca non mi ricordo, nuova, come la mia, color grigio acciaio. Se proprio dovesse andare male la ricompro nuova, me la compro proprio io con i soldi, perché non voglio pesare su mamma, quella l'aveva comprata nuova, io l'ho trattata per poggiare i piatti, uno schifo. Io quella ce l'avevo, io quella con la bombola bella, però non funzionava, no? E cioè? E c'ha tre posizioni di solito, no? Minimo, medio e massimo. Tre elementi, tre bruciatori, no? Ehi, però lo so cosa succedeva, che si spegneva qua, boh. Non nasce mai grado bene. Ma di solito si spegne quando non c'è abbastanza ossigeno. Ma prima di spegnersi con la stufa, cioè se funziona normalmente, prima si spengono le persone, capito? Dopo la stufa, forse è difettosa, non lo so, oppure, come si chiama, gas sporco, che ci mettono anche l'acqua, capito, per pesare di più la bombola, farabutti. Forse magari quello l'hanno rovinata così, non lo so, comunque io l'avevo presa nuova questa stufa, l'avevo pagata un saccaccio di soldi e non funzionava, no, mai funzionato, beh, è una danari, ce l'ho buttata. Non sono riuscito a... anche una che vende la bombola mia, è venuto qua che le aggiusta, aggiusta le cucine, non ha calato bene, subito si chiudava. No, ma non conviene pagarle tanto quelle a gas, perché sono anche semplici, è inutile pagare 150 euro, c'è un modello da 80 euro che ce n'è per i porci, ed è uguale a quella che ho io, marca Bartolini. E funziona bene, certo, se l'ho tratto male io... Vabbè, adesso che viene l'inverno comunque la pulisco bene tutta, gli levo la polvere dagli ugelli, che questo inverno mi servirà. Poco, ma mi servirà. Infatti, io ho comprato due stufe di quelle a Zibro, così, gli ho messo i carrelli sotto, altri due, infatti ho dato il carrello perché era più piccolo quello là, no? Quello dell'altra stufa, gli ho dato anche il carrello a Zibro. Poverina, non ne aveva, ragazzo, no, dobbiamo dire freddo. E lì si lamentava, allora se mi ha la pure una stufa che te la aveva lui. Sì, ia, ia. Bene, bene, bene. Invece il pellet va bene, non lo so, in più locali grandi, quello scalda parecchio oppure troppo. Deve avere comunque lo sfogo dell'aria. Bisogna fare un buco. Quelle elettriche consumano troppo, quelle infrarossi, come le vuoi chiamare, consumano bene, non scaldano nulla, cioè l'aria non la scaldano, scaldano solo le gambe se te la attacchi alle gambe, capito? E infatti io venivo a casa, ho il centro di scaldare, vado tutto di peso, e sono andato a comprargli anche il gasolio, cioè il gasolio, il kerosene, la pezzola, perché costa 1 euro di meno, se no c'è anche il distributore di coso, delle conci, lui che lo vende, quello di Tessoni, però te lo fa pagare 1 euro in più. Eia. Poi cos'altro c'è? Ho visto anche stufe a bioalcol, che sembrano tipo... vabbè, tipo pellet, usano bioalcol, che sarebbe una specie di... diciamo è un alcol ricavato da sostanze naturali, dalla fermentazione di sostanze naturali, capito? Hanno forme anche strane, molto, sono aperte, ci sembra per esempio una specie di cubo aperto sopra, un cubo di vetro, e vedi questa fiammella al centro, un po' strane sono, ce ne sono di tutti i tipi comunque. Va bene, però alla fine questo alcol costa una mare di soldi, 5 litri mi pare siano, costa un saccaggio di soldi, e poi sono un poco diffuse, dai. Poi c'è le stufe tipo Gibro, no? Anni prima, qualche anno prima, la Bricomen aveva le Tosai, che sono, dal nome sembrano giapponesi, e sono sullo stesso principio delle Gibro. Anche lì hanno il loro combustibile, però molte persone le usano col kerosene, proprio perché risparmi. E lo Gibro costa una barca di soldi. Sì, perché ho detto, è un combustibile strano, isoparaffina, bell'onfio, infatti dice di non toccarlo con le mani, che dice che non mi finisca negli occhi, sono guai. Lavarsi bene le mani, non aspirarlo, anche se in odore, peggio, non te ne accorgi nemmeno se ti intossica. Però una volta che è nella stufa è sicuro, capito? Guarda, leggi come si chiama la nostra, con te, la stufa. Io ho preso quella grande e quella piccola, ce l'avevo tutte e due, figurati. Adesso che la faccio leggere a Concetta, vedere come si chiama questa qui. Chi c'è in PMR? Pomponio? Sì, ce ne sono varie marche, comunque. Tosai, Gibro era una marca, solo che da Auchan le vendono con quel nome l'onfio, sia i bidoni, no, non si chiamano più Gibro, si chiamano, non mi viene il nome, ma. Questa si chiama Paseco, dice mia moglie. Ce n'è un bel di marca nata lì. Gibro, vabbè, era un nome che ho visto da Auchan, l'avevamo presa lì, mi pare. Però c'è Paseco, Tosai, altre marche anche che... il pellet, guarda, se vi sia la possibilità mi piacerebbe avere il pellet. Noi avevamo in realtà un buco, uno sfogo, non c'è bisogno di canna fumaria, basta che sfoghi, diciamo, come si chiama là? Che fumo non ne fa tanto, il monossido di carbonio, basta che lo sfoghi fuori. C'è il foro sul muro, però non c'è spazio per quella pellet, quindi niente da fare. Mi vuole uscire questo cane, me ne è venuto. Mi entra il muso sul braccio, no? E alza, mi alza il braccio. Ma Ma allora su hai di andare? Io già l'ho portato prima, se no dovrebbe andare alle 6, alle 7. Ma non lo porto adesso, devo aspettare questa signora qua e poi lo porto. Una volta che ho fatto quello che devo fare, lo porto. Anche lui deve fare i suoi bisognini. Ieri mi sono tutto bagnato perché stava piovendo quando l'ho portato. Eia, vabbè, un ombrellino non te lo puoi portare anche se quando pioverà. Sì, infatti. Cata, mi sono tutto infuso, già avevo il giubbotto impermeabile, cappello, cappuccio, già non avevo poco. Che giubbotto hai? Bel stuff. Ehi, buono, non lo so come si chiama. Un giubbotto che è impermeabile. Chissà cosa sta guardando, è puntato. Ho detto in via Merle, chi c'era? Pomponio? Ma non mi intendi? A me stai dicendo. Ehi, in via Merle, chi c'era? Pomponio? No, io sentivo il colpo importante e buco. Ehi, perché non sono riuscito a chiamarlo, era irraggiungibile. Te l'ho detto, magari in qualche cantina, Aspetta, no, non rispondi, chissà in quale vindiolo è. Eia, mamma mia, c'è fresco però qua, porca miseria. Vediamo un po' quanti gradi ci sono. 17 gradi ci sono qua in questo salone. Io sono in pigiama e con le caviglie scoperte, fuori freddo. Infatti quando farà ancora più freddo chiamerò il bombolaio, subito la bombola facciamo mettere. Così almeno la metti anche a uno, la metti vicino e si sta bene. L'importante è che scaldi l'aria, capito? Che si scaldi l'aria, perché tanto se poi ti dà solo caldo alle gambe, poi ti allontani e c'è freddo, no? Ma perché non vai a pigliartela tu la bombola? Perché se tu la chiami la paghi 10 euro in più. Pensa che il bombolaio ce l'ho in Viale Trento, all'incrocio. Però la mia schiena è compromessa e non mi permette di portare in spalla la bombola. Natalia, lo sai, te l'ho detto. Non ce la faccio, no? Ah, ma appena la vuota, no, nemmeno la vuota riesco a portarmi in spalla. La mia schiena è messa male, me la deve portare lui. Cazzo, ogni volta 10 euro in più la paghi, ti fanno pagare il trasporto. Io mi ce l'ho, dopo il tabacchino c'è il bambolaio, prendo la bambola vecchia, gliela porto e mi porto via la nuova. Eia, fai bene, no? Se pensa che un amico di mamma che ha 80 anni e sono nati, si porta la bomba alle spalla, tu mi dai tu che ce la fa? No, io assolutamente, nemmeno vuota riesco a mettermela. Queste volte sembra che facciano male le ossa, o c'ho osteoporosi, Ehi, qualche problema alla schiena c'hai, Marco, per forza. Io la prendo perché la posso prendere, se non l'avessi potuta prendere me l'avrei chiamato. Andiamo in oramara di risiro, ma se uno non ce la fa. No, infatti. Io ce l'ho. Già lo sai dove è la mia via, no? Invece lì, in Viale Trento, rispetto al mio incrocio, uno sali di 15 metri e c'è il bombolaio, capito? E infatti qualcuno al palazzo l'ho visto con la bomba alle spalle, ma loro non hanno i problemi alla schiena che ho io. Ah sì, la pago 18 euro quella da 10. Eia, sì, anche noi da 10. Sia per la cucina e sia per le stufe. Comunque una si è rotta perché era vecchia come il mondo. Proprio faceva la piccola detonazione dietro la pum e si spegneva, cioè passava la fiamma dietro le piastre, cazzo, il rischio di saltare in aria, no, ho detto, questa la buttiamo assolutamente. Infatti, lo dico la visita, che cosa non si sa mai. Se te lo immagini, salta in aria la bombola, già siamo a conti, no, dimmi. Alza una bomba, Emi. Sì, una bomba. Guarda, è successo a dei conoscenti che abbiamo. Lo sai, il marito ha sbagliato a mettere la guarnizione, gli è esplosa la cosa, ha sfasciato il piano in sotto, mi ha sfasciato il piano in sotto, proprio una bomba, come ha sfogato verso il basso su di Auru. Eia, io lo grido, sì. E poi sono più pericolose le bombole quando sono mezzo vuote che quando sono piene, lo sai? Perché si forma quella, diciamo, del gas in forma, già hai capito, gas proprio in forma di gas anziché liquido. E allora, cazzo. Infatti noi quando vedevamo subito mi trava la bombola, avevi buttato. Uno o due ne abbiamo buttato di bombole quando facevo il servizio ambulanze. Avevo visto un video su YouTube, no? Se lo trovo te lo mando. In Russia si svolgeva, no? Su una strada, superstrada, autostrada, quello che è. C'è una camionetta, le bombole ha preso fuoco. Ogni tanto scoppiava una bombola. Oppure partiva a raggio la bombola, no? Saltava il rubinetto, vedevi questa bombola correndo. E tutti riparandosi. C'era la polizia e degli automobilisti che guardavano. Un bello spettacolo, altro che bello, È bello, caspita, se ci trovi in mezzo, no, è un incubo. Infatti lì stavano belli a distanza. E certe volte i pezzi della bombola squarciata, no, i pezzi di metallo finivano anche lontani, vicino alla gente. Lo so, bombole accese, io ho visto volando dalla finestra, subito in strada, cazzo, tu fidati, se scoppia è un casino, perché quando è mezzo vuota cazzo ci mette poco a scoppiare. Infatti, quando è piena, sai, c'è poco gas in, diciamo, in forma aeriforme, no? Ma quando c'ha molto gas, proprio gas, in forma di gas, è più l'onfia, proprio detona. Perché fa pressione, no? Scusate, sto cercando un cuocomane. Guarda, qua ce ne sono due. Addirittura? No, uno me ne batta a me. Cazzo, di nuovo piovendo, sta la mazza, che ne devi fare? Sì, cavolo, non me lo dire, no, vaffanculo. Ehi, Natali, piovendo sta. Devo mangiare il cane che porta, se non fa piovendo, invece sta piovendo. E pazienza. Buonasera a tutti. Ciao Claudio, buonasera. Sì, ciao Claudio. Sei fuori scala e nello smitter. Sembra che stia pompando molto. No, sempre uguale. 20 watt e 30, 35 modulati. No, non lo tiro più questo. Da quando me l'ha messo a posto, no. Bravetto, mi raccomando, la potenza, tieniti basso, tieniti qui, tieniti là, ho passato anche l'alimentazione, perché era oltre 13,8, l'ho messa a 13,5 scarso. No, e sarà la pioggia che sta facendo pompare l'antenna. Eia, qui stavamo parlando un attalino di bombole, di stufe gibro, stufe a kerosene, stufe a gas, eccetera, eccetera. Quelle sono buone. Vedo che c'è un riscaldamento qua condominiale, quindi quando lo accendo lo posso staccare, però è condominiale, se non ci fosse riscaldamento condominiale non avrei messo le salone una bella stufa per le anch'io. Vai Natali, datemi un minuto che arrivo, che mi stanno chiamando. Eia. Cosa c'è, scusa? Cosa c'è? Chi è? Il ladro? Ah, vai musica, lo capisco. E lui se ne accorge quando c'è gente dietro la porta, mi. Quello del secondo piano non lo può vedere manco Papa Pizzi. Si mette a bagliare perché lo sente, capito? A mia moglie la sente come entra nel vicolo quando sta venendo a casa. E io mi accorgo che mia moglie, perché lui abbaia però in un altro modo. Io so che è lì e non sbaglia, Infatti gli accendo la luce e gliela mando, perché lui vuole andare da lì, no? Sì, meglio. quindi fa anche la guardia a me. Se di notte qualcuno cerca di aprire la porta piano piano con qualche passepartout, mi. Lui che se lo mangia, entra qualcuno qua, guai. E se no che tocchi a me a Concetta, mi. Allora sai quanto la difende, lo faccio apposta io a picchiarla per scherzo. Mi ne rincarnato. Lui che te ne stacca le palle con un morso un giorno, mi. È agile poi, cazzo, si alza, salta, tu lo devi lì, perché lui ha imparato dal gatto, mi. E non ha iatto, ma pare manco un cane. Quanto tempo ha, ricordamelo, o anni o mesi? No, adesso c'ha un anno e 8 mesi, c'ha. 9 mesi deve fare, il 15 di qua. È giovane, e quindi è nella... proprio nel culmine della sua potenza fisica. Ma è agile poi, gatta. Una signora mi ha detto, tanto questo è un pincer. Ma è, ho detto, è meticcio perché è stato incrociato. Ma c'ha tutto del piede, c'era uscito al padre, ho detto. Però è di quei pincer Doberman, capito? Guarda, mi ha fatto usato così, guarda, è una cosa che non si crede, è intelligentissimo. Eia. Anche la cazza, mi, certe volte quando vedi piccioni o quando vedi farfalle che entrano, una scimmia, saltando a destra manca, non riesci a prenderla, mi, una scimmia è proprio. Poi sai, il gatto è più leggero, quindi l'atmosfera per lui pesa meno, riesce a fare dei salti e delle cose notevoli. Comunque anche il tuo cane è abbastanza piccolo di dimensioni, quindi riesce a fare salti incredibili, eccetera. Lo so, mi va, è giocando col gatto. Lui vuole giocare con la gatta per forza, ma chi dà una rugaga e lì vuole rimanere seduta lì nella sedia. E non rugaga, la cutugniamo sulla iatta che mangiano. E lui nulla, neanche cai. Ti ricordi quando mi avvicinavo a guardare la gattina? Non voleva avvicinarsi, era geloso della gattina. È geloso. Se io non posso andare a baciarmi mia moglie, lo faccio apposta a fare così, no? Mia, sei girato, te l'ho detto. Come vede che vado a baciare mia moglie, ne viene lui, brum brum brum, e basta, e cosa? Si stava fottendo, papà. Ehi, sono belli gli animali, dai. Sono belli. Bene. Poi aspettiamo che entri qualcuno. Poi naturalmente se mi viene troppo freddo dovrò magari andare in un'altra stanza oppure mi porto quella coperta grande. Una bella coperta, proprio ti seppellisce quella, Infatti me la porto qua, vedrai dopo. Così no, almeno non mi viene freddo. Bene, Nathalie. Cosa devo fare al computer? No, stavo aspettando un'email a vedere se mi spediscono una radio portatile Midland. Però ancora ieri non hanno spedito, oggi tutto tace. Boh. Ma che Midland è? Nathalie, mi piaceva molto, ci stavo girando intorno come gli squali da mesi e adesso ho colpito, è un Midland G9 Plus PMR LPD, ovviamente, no? 4 watt, no? Lo vendono già così, capito? Non te lo danno, te lo vendono già così. Ma è a livello del 50-50, Sì, guarda, il 9, il Midland G9, poi questo è il Plus, è al pari del 50-50, è il concorrente del 50-50. Va bene, sia l'uno che l'altro. Poi ho rifatto il parco batteria e il PMR, tutto, stilo, mini stilo, agli MT 50-50 che sono due, tutte le pile nuove perché le vecchie non tenevano più la carica. Prese da Lidl, capito? Prese da Lidl. Guarda, le ho usate e funzionano benissimo. Funzionano veramente bene. poi le ho messe nel Brondyfix Dynamic, quello è omologato, quello è proprio omologato. 500 mW RP, le mini stilo, le ho messo, e poi ho preso 4 stilo per questo Midland, perché c'era le batterie, no, nuove, però sono da 1800, io gliele volevo mettere da 2004, durano molto di più. Ehi, lo credo, quello per macchina fotografica devi prendere, quello stilo per macchina fotografica, anche se c'hanno molti ampere. Via, naturalmente ne ho messi, cioè non ho voluto prendere quelle da 2008-3000 perché si scaricano prima, hanno un'autoscarica più veloce, ho preferito prendere quelli da 2003-2004, dai, una cosa, una via di mezzo, dai. E ne ha 4, solo 4 ne ha, invece le 50-50 ne ha 5 di stilo, capito? E il bello che se tu sei senza batterie, cioè basta mettere le pile e funziona lo stesso, capito? Il bello è quello. Invece quando c'è le batterie a litio tipo il Bao Bao, no? Magari ti si scarica la batteria, ti serve urgentemente. Invece lì metti le pile, proprio pile, se non è quelle ricaricabili di scorta, metti le pile e funziona sempre. Figurati. Chissà quanto te l'hanno fatto pagare quel Midland? 68. 68. 68. Ma l'uno o la coppia? No, solo uno. Perché tanto ne ho altri, c'ho due 50-50, ho l'Efficient Dynamic, la coppia, poi c'ho GBC, la coppia, giocattolini, però funzionano. Di quello solo uno, me ne basta uno. Tanto serve a parlare anche in PMRF, serve a parlare in LPP, capito? Grosso modo, guarda, hanno lo stesso prezzo di MT-50-50. Però io sai dove li ho comprati appena sono usciti gli MT-50-50? Li ho presi da Grassi, me li hanno fatti pagare un prezzo da ladri, 88 euro l'uno, 88 euro l'uno, però erano anche usciti da poco, quindi il prezzo era più alto. Capito? Adesso costano lo stesso 65-70 euro circa. Figurati, comunque questo Midland è più bello così? Beh no, non più bello, ma mi piaceva la forma un po' particolare, dai, lo volevo. Tu dici, ma ne è già un bel, perché è come baracchini, no? Anche se ne ho già, mi piace sempre prendere altri dei diversi. Via. Ma te lo porti a lavare un cane che sta piovendo poco a poco? E beh, lo porti o dopo? No, io no, ancora è presto. Adesso fra un po' vado a mangiare, verso le 7 lo porterò. È troppo presto, se no è un casino. Ehi, ehi. Giornate un po' così, ce le dobbiamo tenere, portate che piova però. Pazienza. Adesso quando all'estate mancano ancora 7 mesi, 8 mesi, mamma mia. Purtroppo Claudio, me e Natalino quest'estate ce la siamo bruciata noi. Metà estate proprio non ce l'abbiamo fatta, non so cosa ci è successo. Senti, ma sino alla settimana scorsa c'era un caldo a morire, boh. Mi è abbassata la temperatura. Ora la televisione, Videolina, dice che c'era neve nel Nuorese. Ehi, credici, perché può essere. E tra qua ci sono 19 gradi qua dentro. Però c'è la sufficienza, No, non l'abbiamo acceso ancora. Senti, ogni differenza dalla parte bassa alla parte alta. Io dentro casa ho 16,5 gradi, pure minimo ce ne saranno 10. Qua ci sono 17 gradi, Natalie, meno di te. E tu perché te ne sei andato in alto? In basso bisogna andare. Se vai in campagna mia ti pisci sotto al freddo. Tu pensa, a Sassari non c'è niente. Sali lì dove c'è quello che ha tutte quelle antenne e comincia già a esserci la neve. Senti già, il freddo, lì. Quando sale a campagna mia di bicisotto dal freddo. Ma lo so cosa vuol dire che mette la neve e cazzo al ginocchio, lì, perché c'è dietro a Usilomi. E figurati io che sono più alto, sono ancora più alto, capito? Qua la mattina è tutto ghiaccio, adesso iniziamo, è tutto ghiaccio la mattina. Tu mi inizi a scendere verso la parte bassa, anche via Luca di Abruzzi, non c'è più niente. Il ghiaccio è pure pericoloso. Il cambio di temperatura già come sali a casa di quello che ha tutte quelle antenne, del mio vicino. Figurati, più sale più produrrà. E una volta sono passato per far vedere a mia moglie la situazione, sembravamo capai in coso, pariami. Tutto neri, guarda una cosa incredibile. Lo so. Dunque, alcune alte sono belle per tante cose, però sono brutte per altre. È un bel freddo. Qua sta già iniziando il freddo, infatti penso che questa settimana si attacchi il riscaldamento se non cambia la temperatura. Ah, ma sei ricaduto in casa di mamma, in campagna, e ricaduto già punendo regna nel caminetto. Bello il caminetto, bello vecchio. Umano era chi su proprio io, gatto mogna bambino, ci potevi arrostire la roba alla grande. Anche se io usavo di più il coso, ma lo mettevo furcio, avevo uno scaldabagno di quelli piccoli tagliato a metà, no? E vabbè rubarmi più, ma tanto cucinavo, tutto a russo mi cucinavo, ma se mi buttiamo di nuba, Eia, Baba, si sta abbassando lo smitter, mi vuol dire che sta piovendo. Ora mi si abbassa leggermente lo smitter. Eia. E c'è mai quello piove e mi si solleva, faccio. E mi si aumenta il corremme. Prega. Avanti, di avanti, di avanti. Sì, no, buonasera. Sono messo male. Baba, cosa è successo? Il piede? L'altro. L'ha schiacciato? No, me l'ha colpito, facendo retromarcia, non il muletto, tutto spallito. Io tutto lungo il viola, non riesco manco a appoggiarlo in terra. Se già, ma te t'hanno pinacciato, mi? Guarda, non è possibile. Ma infatti stanotte andrò a fare questa cosa sicuramente, faccio fare più di non è possibile, non si appoggiava manco in terra, c'è tutto viola. Sì, quello è infortunio sul lavoro, altro che. Io cazzo non ho parole già, guarda. Te che ce l'ho quel comunicato, cazzo. Ma io su Gecco era, non t'ha visto? No, sono io, Claudio. Stavo facendo retromarcia e come ho premuto tanto per la retromarcia. E sono andato a tornare indietro col piede, non ce l'ho fatta e mi ha preso all'altro piede. Ah, il traspalletto elettrico! Ah, ho capito il muletto, pensavo lo stava guidando a qualcuno. Poverlon fiumissimo, mamma mia! Partito di colpo, ma solo un colpo, non è che me l'ha schiacciato. Solo un colpo, ma solo in confusata, c'è una penana sotto c'è il peso. Ma adesso vedo, ma non lo posso appoggiare, che non mi entra manco una volta, niente. No, vai, fatto controllare se ci sia qualche microfrattura, è peggio dopo. Infatti, fatelo controllare già. In mezzo di vita sotto il tuo viola. Sì, allora è frattura, beh. Il tuo viola è in mezzo di vita sotto. Andare. Questo lo va. Ehi, t'hanno pindacciato davvero già a me. Andiamo a rivivare, andiamo a pindacciare. Stavo sopra la spina, boh. Insomma, quel posto per Gianni è micidiale, proprio non lo può vedere più, vabbè, per vedere, finestra, niente, no, non sta piovendo. Qua sta piovendo, c'è come il buggì, poi c'è lì, appena sta piovendo. Sì, non forte, ma poi fa e poi passa. Sta già passando, vedi? Vedi anche qua sicuramente. Però la data, stanotte sicuramente piove. Vabbè. vediamo. E poi mi sta didattico a mangiare a picco, così mi libero, poi mi poso in onga, fissa di setti. Siete qualcosa, eh? Un minuto che arrivo, mi sistemo a Ciccio Bello. Sì, adesso mi bagno tutto perché devo portare il cane dopo. Uffa! Guarda lì, l'ombrello! Ah, ma tu ti viene male portare il baccolo e l'ombrello, no? Uno all'altro, no, già, anche se mi bagno, già mi metto la roba, già mi metto il giubbotto, il cappello, mi metto, non c'è problema per quello. Cazzo, è una cosa che non si crede. Eia, adesso ci bagna il cane pure. Ah? Lo so che si bagna, l'asciugo, devo comprare il giubbottino, quello impermeabile pure a lui, per non bagnarsi. Già lo so, io vorrei andare a comprarglielo. Ah, per un compareggio, chi avrà, lo devi portare, poverino. E già mi, in tutti che vuole andare. Eia, comunque a proposito di scaldamento, questo di sotto già prima che facesse questo freddo c'è la tavernetta, no? C'è il caminetto lì, si chiude dentro, bello, si riscalda, arrostisce, un bijou lì, sembra niente di formaggio sciolto, cozzo, mamma mia che buono. E il vino che scorre a fiumi. Soprattutto. Questi che hanno disegnato anche io vedo un pippato. E questa è la casa, no? Giù. Ah, magari l'appartamento, il giardino, e a un'estremità del giardino si è fatto la cantinetta, no? Sì, cantinetta si chiama, no? E poi si è messo appunto il caminetto, il fumaiolo, l'ha messo a 3 metri e mezzo, 4 metri dal terrazzino, cioè non dovrebbe fare una cosa del genere, a mettere un fumaiolo, infatti ogni tanto c'è fumica o c'è odore di bruciato, diciamo che lo stiamo sopportando, dai, non vogliamo essere troppo pignoli. Si chiama la fumaiola. La cantinetta si chiama tavernetta. Scusami Natali, tavernetta volevo dire, tavernetta, adesso sai perché ho detto cantinetta? Perché stavo pensando a Pomponio. Perché Pomponio va nelle cantinette, va. Oia. Va bene. Piove e io me ne sto a casa. Pazienza. Meglio che piova e che io non esca, meglio che piova, altro che. Già. Cavolo, già cominciando a punire la mimura, Emmy, chi vuole andare. Però devo aspettare che venga quella persona, che è pizzina, prima delle 6:30 non mi posso muovere, perché io vado dove c'è la macchina lì al bar, vado, poi ne lo torno indietro, vado più su, finché non fai i suoi bisogni, no? Quando fai i suoi bisogni non lo salgo. Oppure dolcemente gli spremi la vescica, così fa subito, e lo porti su. Eia. Antonello, ci sei? Che non riuscivo a raggiungere al telefono, Antonello? Quello sarà da Nico, svazzando. No, può darsi di no, no. Può darsi anche di no. Mira, lo senti, non lo puoi sentire da qua. L'odorino di caminetto. Vabbè, finché non c'è maestrale non c'è problema. Quando c'è maestrale invece ci arriva il fumo, quindi dobbiamo chiudere le finestre, no? E sai anche cosa sta cucinando. E certe volte arriva un bel odore di pancetta, di cose, di tutto, guarda, di tutto. Sento ambulanza a andare. O polizia. Vabbè, può essere un banale incidente, qualsiasi cosa può essere. Non vuole che io parli al baracchino il cane. Quindi ricordati il QTC, tutto tetra, futti disegni. Noi questo tetra non ce lo possiamo comprare. No, non esiste. Perché anche se tu avessi un ricevitore che riceve il sistema tetra, quelli sono sicuramente hanno criptato le comunicazioni, perché forse forze di polizia sono autorizzate a criptare le comunicazioni per motivi di sicurezza e di privacy e non li sentiresti nemmeno col ricevitore adatto, eccetera. E dicevano che questo ricevitore ARDV1 con una piccola modifica, un aggiornamento software, avrebbe ricevuto anche il Tetra, però il problema è sempre quello, che loro criptano o cifrano le comunicazioni, come lo vuoi dire, e non c'è modo, non c'è modo. E vabbè, passata un'era, la fine di un'epoca è stata, eh? Abbiamo ascoltato anche troppo in passato, orecchie di porco. La polizia è... Mimì, da te stanno venendo, mi preparati. Eia, eia. Mamma li turchi, mamma li turchi. E beh, Claudio. Hanno smesso, po'. Sì, magari sai cos'è. Quando c'è bagnato, subito gli incidentini, perché la gente non si limita, non si limita. Corre e poi inchioda e scivola. Ma cosa corre? Qua faccia, dici non so buone a guidare, non vi so buoni, Bruffio, Marco. Quando piove è un casino. Sì, sì, ma quello è, cioè c'è gente che sbanda nelle rotatorie, che si esce dritto, ma anche andando piano, no? Cioè, anche se vai a 40, magari vai a inchiodare e sul bagnato scivoli, è chiaro, no? Non ci sono buoni a guidare qua a Sassari, tutto si rallenta, ando più che un macello. Eia. Io grazie a Dio, me Natali, la patente B ce l'ho dal 90, no? Quindi 90, quindi 2000, 2010, 27 anni senza mai un incidente in macchina, né creato da me né creato dagli altri. Anda bene, e io anche sulla neve so camminare senza catene né nulla, figurati, sul ghiaccio. Il ghiaccio è il pilonfio, più della neve. Io le catene le avevo comprate, ma poi non ho mai nevicato qua, non nevica mai. E poi comunque devo imparare a metterle, quindi io dovrei andare a Piazzale Segni, no? Con un amico, con qualcuno che mi segua, no? E imparare a metterle, no? E a toglierle, no, perché a dirlo è facile, però poi quando sei in difficoltà, no, che magari c'è la neve che ti copre mezza ruota, e allora lì è il casino. E voi, ti dico il WhatsApp, mi ricadene a Cavanni, io mi sono trovato a stringerle alle 4 del mattino i rubisantini di campagna, alle 4 del mattino, perché sennò non riuscivo a uscire da lì. Eia. Guarda, tu pensa che io sono tornato dagli punti, prima non ce n'era ghiaccio, dagli punti fino a casa col ghiaccio in moto, per puro miracolo non sono caduto o scivolato, ma mettevo le gambe, allargavo le gambe e fui all'infuori per fare da bilanciere, per riuscire a stare in piedi, un incubo è stato, eppure sono riuscito a tornare in garage e avevo le punte delle dita viola, tutte intorpidite. Sì, me lo posso immaginare, mamma mia. E io che ne ho preso la macchina a mio fratello, perché cazzo ci è uscito dentro la scuola di San Giuseppe, con la record, pesa dini, cazzo, a chi beva la neve, no, e se non ci si è abituato, non c'è nulla a fare. Tu pensa, con quella record io sono Sassari Bono un'ora e sono sceso in montagna, con la neve. Cos'era? Un Opel Record? Avete parlato in due comunque, dimmi Gianni. No, Natalino, sono qua sul macchino. Ah, visto là? Sì. Alto alto. Non mi ha fatto la fotografia che ero seduto sul divano, la gatta seduta su una gamba e curta a fianco. E già l'ho vista, l'ha messa su Facebook. Ah, su Facebook l'ha messa la fotografia. Chi gliel'ha dato il nome di Kurt? Io, perché avevo un pastore tedesco che si chiamava Kurt e mi è morto quel cane. A me il nome è Kurt, mi ricorda Kurt Cobain, pronunciato Kurt, credo, Kurt Cobain. il cantante o chitarrista di Nirvana. Questo è Kurt con la K, Sì, anche quello, Kurt Cobain. È un chitarrista che si è suicidato. Il chitarrista oppure il cantante di Nirvana. Gruppo rock, grunge, è un genere strano, sempre rock comunque. Ho capito, no, io c'avevo quel cane che si chiamava così. Infatti questo, intestato a mia moglie, non lo voglio più mio il cane. Quello era anche addestrato, il pastore tedesco. Era un cane da circo, l'avevo fatto diventare. Un cane da circo? Sì, ne faceva poco di cose. Ti sto dicendo, mi aveva insegnato a addestrarli i cani, un amico mio. L'ho addestrato questo pastore tedesco, anche se aveva un carattere, me l'ha fatto i silucci a addestrarlo. E questo ha lo stesso carattere di Gisato. Infatti mi tira anche al guinzaglio questo. Non sono riuscito a togliergli il vizio, perché no, ci vuole spazio per addestrarlo. Io no, purtroppo non ce la faccio a camminare, a fare. Prima, quando ero sano, già l'ha addestrato il pastore tedesco, tutto che vivi vazia. Magari con Franco Fanari, no? Ehi, Franco me l'aveva insegnato. Non tirava assolutamente al guinzaglio, il guinzaglio pendoloni, e lui andava a fianco a me, il cane che si lui vi dì. Sì, anche il cane, anche il peggio non fa. A volte però, a volte tira, come vuol tirare quando tira, per non tirare. Ma a me mi tira, che a me mi fa male la gamba molte volte, e allora dico piano, piano, lì, guarda. È una cosa che non si crede, dice di ragazza che vuoi andare, fa la frenesia ad andare, invece chi tu pure senza guinzaglio, sempre a fianco mio andava, e non si muoveva, se io lo mollavo su un posto e me ne andavo, finché non lo chiamavo io non veniva, assolutamente, perché l'avevo addestrato a fare così, era un bisù di su qua. Oh raga, lo sapete che c'è sempre quella megera a Platamona, senza copertura, tutta quella robaccia sua sparsa lì intorno. Ma immaginate il freddo che c'è a Platamona adesso, e questo è niente, aspettate a gennaio o a febbraio, io dico che quella ci muore quest'anno. Sì, capite che fa freddo la città. Sì, ma dormire così in strada. La copertura che aveva purtroppo non ce l'ha più, perché non so chi gliel'ha tolta, qualcuno del comune. Tutto è imbandito di roba, di valigie vecchie, mamma mia. Certo, in effetti se riuscissero a farlo andare via per la prossima estate, vabbè che anche lì è tutto negri, buttato in terra, lì. Boh. Proprio pusati in terra, uno quest'estate era, ce n'era uno proprio dove passavi per scendere, buttato per terra, pancia là, ha detto, ma questo si sente male, invece no, si era buttato a terra così per riposare. Cazzo diavolo, così fanno al paese loro, me. E allora, dici, se li devi mandare tutti fuori dalle balle. Cazzo, non ha aiutato a nessuno di coso, no, di... Tutti illegali, fuori dai coglioni, manco col biglietto. Ah, certo che Mussolini, Natalino a Mussolini gli fa un baffo. Qua io non sono né razzista nessuno, però li avrei aiutati nel loro paese, non qua. Qua stanno facendo soffre potenza, e vi dico la stessa scena, perché anche non ce la fanno anche qui, c'è stato tutto il giorno, poi l'ho messo le moto. Mi dici sono ribellenti, mia, allora ti dossi, vedrai che succede in così manni, se non li buttano fuori. Mica alla croce si girano, non ci credono loro. Ehi, quelli picchiano pure i poliziotti, non ci credi tu, che non rispettano a nessuno. E una volta ci hanno chiamato i carabinieri quando facevo servizio ambulante, perché ancora non c'era 118. Si chiamano i carabinieri, ci fanno la diritta e piazza di più urgentemente, però aspettate che arriviamo non vi credi. Guarda che hanno rubato le armi ai carabinieri e la macchina gli hanno rubato. Ci sono due mitragliette in giro e ancora non le hanno trovate. E la radio gli hanno fottuto. Cazzo di euro, le mitragliette, la macchina. Gli hai tolto dallo stipendio, mi. No, saranno ancora in galera quelli. Cosa vai, un orso? No, ecco, scusi. Claudio, se mi parla di Filippo, abbaglialo tu. Cazzo, ma non lo so, ma geni. Ma io non dico di carni mari, no? Allora, sei carino. Il padrone di Filippo, Emi. Quel canonello. Contate, poveraccio, non ha legato. L'altra volta abbiamo portato insieme, ma non sono riusciti a legare. Era un po' lungo. Tyson si rumagna perché lui non lo teme a Tyson, però Tyson si guida un musichetta, da poi si guida a Tyson e si rumagna, non ha compreso nulla a due. Ma io volevo che giocasse, non perché facesse la vicinza, magari dopo do la ragione a fare, dopo che stanno insieme, perché è successo già con l'altro cane, c'è un che giocava con lui. Anche lui gioca con i pitbull, però... Tyson si è spazientito perché deve essere che lui l'ha abbaiato e Tyson si è spazientito per quello, perché lui è bravo, mi vuole solo giocare Kurt, forse perché Tyson non gli va via a conto e allora l'ha abbaiato. Sono particolari, guarda, l'altro giorno ho portato, siccome entravo alle 8, alle 7 ho sceso il cane, dopo le 7 e mezzo l'ho portato a casa e c'era uno pulito, è passato vicino a me e questo si stava guardando attraverso, il peggio l'ha cominciato a richiedere, si è sentato un bene. E questo qui invece che portarlo via, si è fermato, si è fermato, si è fermato a fare, che deve fare a fare. No, io è bravo il mio, bravo, e vai però noi, domani dove stavi andando? Cioè, ti fermo, cosa ti dobbiamo fare? Vai, cerca di evitare. Specialmente se sono tutte e due maschi, allora si azzuffano, mi. È per quello che io ho temuto, perché Kurt non li teme i cani grandi, perché lui gioca con i pitbull, c'ha un amichetto che è pitbull, ma ogni a capo che si manno. E poi con una pitbull di quelle grandi, cata, però non lo tocca, perché si accorge che lui è cucciolo e non gli fa nulla per quello. E lì è femmina. Stavi io visto un pitbull, che è stata la miniera, le chiedi la mano. Ha dato il cuccioletto praticamente di cose, di cane basso. Non aveva manco due viti, se l'ha preso, l'ha preso più il collo, un catenato, tutto. E lui gli dava come se cazzo di danni da iatta, no, così prendeva, oh, il cazzo del padrone non riusciva a prendere, l'ha dato tutto benissimo, il cazzo, ha dovuto portare per tirare 150 punti da noi. Poverino quel cane, purtroppo i pitbull, se sono quelli che non possono vedere gli animali, si azzuffano con tutti. Io ho visto questa pitbull grande, una gabbuca, era mostruosa. Beh, a Kurt non gli ha fatto nulla, perché si è accorta che lui la cuccioletta non gli ha fatto niente. Però deve essere che non si azzuffa quella lì. Che magari va d'accordo con gli animali, non sono tutti così, no? Allora, magari perché era femmina, capito? Però sono femmine e anche dai sono gioca. Se va di giocare da qui cerca di saltarci, no? E fa i preliminari. Fa così. Così ti rendi conto, c'è un cane d'attacco. Ma la Susi, sai se lui mio si era via magnato, cosa no? Chi si era del Salubero a chi su cani? No, ora, io a me non piace fare il cane, perché devi fare il cane. Anche ne prenda, anche ne dia. sia, non mi piace, perché a parte che io ci tengo bene, non mi piace farlo rovinare, ma è a qualche modo sono rovina, ne farò qualche senso, non mi piace. Per cui non mi piace già per le persone, più per te che per gli animali. Io a ci tengo, non mi piace farlo rovinare più nessuno. Solo che se vedo che magari adesso lo stanno attaccando, rimuovo il pistaggio, perché l'altra volta questo cane ci ha fatto la circondata, stavo parlando qua con questo amico mio sul muretto, questo cane è la padrona, era al telefono, ce l'aveva un pistaggio, ho fatto lo spistaggio, accanto vede che c'è il cane lo spistaggio. Questo cane cosa ha fatto? Ha fatto il giro dell'albero, della aiuola che c'era, e l'ha preso la sconfidata, stava andando per fossicarlo, sta e c'era andato dall'altro per e poi ce l'ho fatta io a attaccarlo, perché sennò ne succedeva un casino, e comunque me l'ho presa con la padrona, e perché tra tutto che c'era il cane si è messo a il cane non deve mettere la guinzaglia, se no non si spisce, poi non ha capito, specialmente se è un cane aggressivo. Infatti, se sono di quelli aggressivi anche la museruola ci vuole, non solo là, per legge, quei cani grandi così. Cazzo, ieri sei giocato con un cane maschio, ma quanto sei giocato, un carlino, si sono fatti a beffa, perché ce l'ha questo marziano, questo carlino, no? Come lo vede subito, tac, si punta a gurti, uno si ripone davanti, e si fanno a beffa, uno insegue l'altro, guarda, tu li devi vedere, ed è maschio anche quello. Vabbè, già, neanche a me piace farlo, però Mimmo si ricorda, capito? Perché quando era più piccolo c'erano due cani che, come lo vedevano da lontano, partivano all'arrembaggio. Io a Filippo l'ho sempre tenuto a guinzaglio perché ci girava, ci puntava, ed era già, però erano più grandi, eccetera. Adesso questi cani sono al contrario, si mettono in bigliato colpi tutti e due impari, non uno prima, non avrebbe, tutti e due impari, capito? Allora adesso stanno lontano quando vado a Filippo, per quello te lo sto dicendo. Siccome so adesso con certezza che si difende molto, ma molto bene, allora sto attento io. Con qualcuno c'è un pitbull femmina che giocano assieme, femmina però. C'è l'altro maschio, quello che l'ha preso all'orecchio, mi ha trattato la legge, Filippo. Sì, lui è un padrone che non di mia, capito? Nel borso d'ore di punti. Quello lì, la stessa cosa, lo tiene sempre a guinzaglio, prima lo teneva sempre slegato, capito? Io a guinzaglio ce l'avevo a Filippo, quando questo cane è partito da lontano, l'ha giunto correndo, ha detto guinzaglio, come si è avvicinato, io ho mollato a Filippo si è girato, mi è istinto, perché la bocca l'ha trattato la Recci. No, io non ho voluto mollare, mi chiedi la mano. Butta mulla via, che se non mullavo guai, detto signora, la prossima volta le lo muore, lo tu dici, la prossima volta perché non è detto che lui sia a battaglia, che non si possa difendere e il suo cane è la prossima volta le lo muore, un po' di su di riesci pure a nessuno. No, dai, che si azzuffano e poi Tyson è bello snello, su. Vedrai a che pitbull mi dai a ribelli con Tyson. Ehi, pitbull è maledetto, bufuso, guarda. No, Filippo, no, la verità, io non sono di quelli che a me mi dà fastidio, se lo tengo, c'è anche l'altro giorno. Sono sceso a guinzaglio nella piazzola dove c'è l'edicola. Tutte le fatte non ci sto più scendendo, tutte le sere c'è questo pastore tedesco molto bello, però è molto educato, la verità. Risponde molto bene ai comandi, sempre sguinzagliato. Il primo giorno sono sceso, era subito Gurrendi da Filippo, ho detto non può essere, allora se arrivi allora, invece il padrone ha detto, ehi, ha fischiato, ha turlato in Daredo e si è pugiato vicino allo padrone, ho detto complimenti, ma ho detto perché, scusa, ma lui è abituato così, ho detto no, complimenti per i comandi, ho detto perché io stavo già tenendo il cane, lui mi stava già tirando a attaccarsi, ho detto no, no, no, non ti preoccupare. Tu avvicinati, passa che lui non si muove da vicino a me. Oh, cazzo, le sono passato vicino, ha un po' gareddo, come sta di mamma mia, guarda, se mi dà dell'occhio, padrone mio, gatto guai. Sono passato vicino, Filippo, se la sono guardati tutti e due con quello sguardo. Cazzo, Ecco, questo cane è nato lì, senza guinzaglio, non si è mosso, ha davanti al padrone. Anche il mio faceva così perché era distratto. Non se non gli davo l'ordine io, non si muoveva. Perché gli quando l'ho addestrato me ne andavo più lontano se lui si muoveva, capito? E allora non si muove. Signor padrone se ne anda, dici, e mi abbandoneggia, compreso? Grazie, guarda, ma mica, mamma mia, ragazzi, non vedo più parare, non che giudito, va a parte d'ora la riccia, non che è un casino. Insomma, ce l'ha già fatto con uno qua della Apple Garage, un pastore tedesco che tra l'altro è un pochino anziano, grande, insomma ci sono attaccati, fortunatamente non è successo niente, ha detto la torre, ha detto visto correndo, ha detto dalle piccole, è partito a proprio andare su Filippo, l'ha avuto un fruscio, un padrone, l'ha chiamato per nome, ha girato Gianni, ha girato Maria, una macchina prende inversione, è tornato, stai fermo qua e non ti muovere da davanti a me. Cazzo, si è seduto lì all'ingavora come nulla, non si è mosso la ligia. Io ho visto uno anche ieri così, che come l'ha fischiato, l'ha fatto se qua, il cane ha fatto il tarrato, capito? E mi ha fatto avvicinare per mettere il guinzaglio, perché era volante, quando sei da me non lega sempre, capito? Un cane che non è nemmeno di razza, è di quindi, però è obbediente, e adesso la sto bene. Sì, sì, anche questo ragazzo, molto bello, bello, un bellissimo cane, veramente. Ma io ho fatto i complimenti, infatti io è rimasto un po' così, dice, no, scusa, ma no, complimenti per il comando, però ti sto dicendo, fate complimenti anche per il cane, perché è un bellissimo cane. Guarda, è passato avanti Filippo, proprio avanti perché l'ho obbligato, proprio avanti alla vicola, sono passato in un marciapiede, non si è mosso dal padrone, a dire mi bacia vicino va ribascio, nulla, non si è mosso, niente, infatti era un taglio, tranquillo, poi se adesso è passato avanti, lui era sempre sciolto, no, secondo me non c'è manco un guinzaglio, non era giù in mano un guinzaglio, era un padrone. Dice lui è abituato a camminare da solo, sta a fianco a me, e tu ma per gli altri cani come fai? Non c'è problema. Quando io le dico stai vicino a me, non ti muovere, lui cammina passo passo al padrone e non si muove. Cazzo di tumulo mio, giro modo guai. Il mio è un delinquente, delinquente. Non lo solo dentro qua e dove è recintato nel boschetto. Tutta l'altra volta non me ne sono accorto. Dietro gli alberi in fondo c'era un signore con un cane mitticcio, che sono abbastanza grandetto, e Filippo è entrato senza guinzaglio. Fortunatamente sono riuscito a mantenerlo dalla pettolina, perché mi sono accorto subito, se no guai, il Kiver era già stesso un casino, perché è un maschio anche di quelli un po' balordi, come vedo Filippo sta sempre abbaiando, Filippo manco lo gagga. Mi ha detto, mamma mia, adesso prima di entrare controllo bene e poi lo mollo. Però in tutto questo discorso c'è che bisogna avere molta attenzione, massimo rispetto per i cani degli altri e per tutto, capito? Perché sennò è un casino. E Marco, mangiare adatto? Marco è l'unico tranquillo perché i gatti non escono da casa e se ne frega. Eia, sto mangiando. Mangia. E invece Kurt lo stesso senza guinzaglio va. Addirittura siccome sa che io cammino piano per la via della gamba, mi aspetta pure. Senza guinzaglio, se si avvicina al marciapiede dico no. Pum, e però subito di andare lì. Tu mi devi dire. E con tutto che non è addestrato, non l'ho potuto addestrare perché non ce la faccio più a camminare. Se non l'avevo portato per addestrarlo l'avrei portato in un posto, perché ci vuole spazio per addestrarli i cani. Qua è un casotto, infatti perché gli metto il guinzaglio? Perché qua ci sono le macchine, è un casotto, non si sa mai, compreso. Se no lui già va senza guinzaglio qui. Oh già, e tu allo teme il dramma, l'autobus? No, ci ho mai fatto caso, lo sai, no. No, lo sai che cosa teme? Teme le montagne, dell'acqua, che ne abbiamo già parlato. L'acqua, però solo se ci sono montagne, perché così io gli faccio la doccia e tu sei stato. Se te la mando, ti vado facendo la doccia, sai, se lo quando la vado a casa rimane fermo, anche quando lo porto a Monica si rompe addirittura. Infatti Monica lo chiama Cicciabello, chiama Blu, si rompe blocco, si rompe russa bu, soprattutto quando lo sta asciugando. Sì, anche il mio, il portangere cammina in puntata di bene, per non fondisci di bene. Infatti la gente è una carina, ora compare giù il chivale, che hanno fatto. No, però quando io ce l'ho nella strada e passa il tram, lui si tira indietro e si nasconde. Invece vede questa cosa grande grande, invece le macchine no. Sì, le macchine già stato, come sta già messo lo sportello, non te la metto a Filippo, è già stato in presa nella macchina mia. Già mi ha rischiato di andartene con Filippo, Si entra in macchina non ne vada più, eh. Sì, mi si lo buttavo. Ci arrivi di poco a me moglie, mi ha giocato di lui in fotografia. Filippo è amante delle macchine, adesso poi c'ha il coso. Tutte le macchine nere che vede, li punta e le getta, quando si vede, ma ne abbaita a vedere se vede la mamma. Capito? Un casino, tutte le macchine nere si guarda. Poi conosce il rumore del motore, deve essere, perché quando è con ricatto che mia figlia rientra tardi, ed intende il rumore quando è parcheggiando la macchina, se ne alza e va alla porta, capito? Ma che di Claudio, ti posso dire una cosa? Che io mi accorgo quando è mia moglie, senza volerla io né nulla, lì senza entrare neanche nel vicolo. Il cane abbaia in un modo che io so che è mia moglie, a commissa. Io ho visto dei siti di americane, no? Di vittime di aggressioni di cani, no? Proprio morte. Ma cose impressionanti, c'era gente senza mezza faccia, gente con la gola aperta, ma una cosa impressionante, impressionante, ma erano cani tipo, sai, tipo Pitbull, Rottweiler, quei cani che escono di testa, mi. Sì, ci sono American Pitbull Terrier, e sono mostruosi. Infatti sono grossi e alti, ma sono quelli grossi grossi e alti. Oh già, ho visto, sono andato a vedere il lavoro che sta facendo Capri, no? Cioè, ho chiesto il mio intervento, fortunatamente ne abbiamo tolto piedi, sta facendo un nuovo coso dell'acqua e tutto, insomma gli ho fatto vedere tutta la linea dove ho fatto la nicchia, e ho visto i cosi che c'ha lui, i, come si chiamano? Come si chiama il cinghiale in alta lì? I cani corsi, ce l'ha un'amica mia, Marrocciola questo, ma tu lo devi vedere questo cucciolotto, a 7 mesi, ne fa a 3 volte del mio. E come ce l'ha il cane? Non ce l'ha, come si chiama Matteo, come si chiama, non mi ricordo, il cane corso. Marino mi pare ce l'abbia. Sì, sì, Marino ne ha uno, ma lui ne ha due. Due cani corsi maschi, cioè, ma c'hanno 7 mesi. Questo giorno doppio di Filippo. Non si prendono il doppio di adesso. Se sono lui, hanno le tappe grosse grosse, l'uso, cazzo si fa di capo allucinato. Grandi sono già, grandi, né Filippo ma duri. Filippo di nuovo adesso che sono finito le gare tutto, qualche chilo glielo sto facendo prendere di più, siamo a 38, ma 38 di bestia, bello, bello robusto, non è che ha pancia, bello anche perché sta correndo di nuovo, anche lì l'altro giorno ho provato a correre in spiaggia, ha fatto anche 3 km correndo. E questo è più grosso, questo ma c'ha 6 mesi, 6 o 7 mesi, Filippo c'ha 5 anni, non è che c'ha un anno, Filippo c'ha 5 anni, questo è lo doppio. Ma sono tutti da quando sono cuccioletti, io ne ho visto uno che aveva 2 zampe perché erano tutti quelli in Italia, quando era piccolo, adesso che è grande, adesso questo si va, perché è andato a comprare le dare bambini, ne è tirato 4 o 5, e l'unico che l'ha trovato a Caglia, il cazzo, ma le bambini proprio di cani corsi, di lusso al rio, l'ha trovato per andare in corso, che ha 2 zampe allucinanti, se lo vedi cazzo è un capo allucinante, bellissimo. Ce l'ha anche un mio collega a Pepe, ha detto che è stata un reti, cazzo che il padre l'ha nei buchi, ce l'hanno in campagna, dice che sta combinando un pericolo sicuramente perché si vuole accoppiare, e si mette in cazzo e salta a muretti in cazzo di 4 mesi, prende in cazzo si arrampica come il ragno, e poi salta. Anche già anni c'è questo problema. Anche Doni Avanti pari e brinca giù muro della nipote o chi è, della zia. Cazzo un casino. Infatti tutto il materiale che mi ha tolto dallo scavo che ha fatto, sta sollevando il muretto, capito? Non pensavo fossero così questi cani. Infatti anche Mario mi ha detto, non si può parlare perché sono dei cani molto molto particolari, a parte che sono molto aggressivi, nel loro territorio non ti puoi manco avvicinare, ma poi sono agili, sembra così ma sono agili, saltano, camminano sopra i muri, cioè sembra che stiano salendo sopra la scala. E tu non li hai visti grandi, Claudio, quello lì adesso te lo ricordi quelli di Gianni come sono? Il doppio diventano di come sono adesso. Guarda, sono stusi, eh. L'ho visto, fratello di Walter, c'è qua il cane corsi, Claudio. Un macchina femmina, non sono dei bestioni. No, vabbè, ma non sono cani d'appartamento quelli. Sono cani da giardino, per chi è la campagna. Filippo già ha una pezzatura buona, come quello di Gianni, dai. Hanno più o meno la stessa misura. A parte che magari il mio c'ha un po' di peso in più rispetto al suo, ma la bestiatura è liscia e quindi si può tenere in appartamento. Ma che cazzo fai a tenere un cane corso in appartamento? Oh, ma cazzo, già rompo l'armadio, ti ricaggi l'armadio in Nanto. Ehi, sono mostruosi. C'è la Carmela, quella del bar di Corso Trinità, quella che c'è in fondo, uno, e c'ha 7 mesi. Se giocava con Kurt, l'ho visto l'altro giorno, era mostruoso, mi ribrincava in Nanto a Kurt, ma tu è cuccioletto, ogni 7 mesi c'ha, ma è un mostro. A me ditemi quello che vi piace, ma il cane mi piace troppo, le razze così, ma quello di Gianni, i molossi mi piacciono molto, però i piccoli, diciamo, l'inglese, il francese, quello che c'ha Gianni, il carlino, i cani così piccoli, quella razza mi piace troppo, però fatemelo dire, il gatto non c'entra a fare, mica ci va viaggiando, era bello, ma se no i Giroro, tu quello di Giroro, quello di Magattia, ho già, che è bello che era. Ma Gianni è pacciuto. Gianni ha calato la palpebra. No. Oh, yeah. Ehi, ci sarà la moglie di Claudio. Perché? Perché ha sentito gente con il suo microfono, è logico che lo intendi, si vega acuto. Mimmi. Cosa c'è? Il ladro! Vai, musica, guarda, la musica! Cioè io non sono mai solo, guarda, qua c'è sempre gente, o c'è mamma e figlia o c'è sempre la mamma. Non sono mai da solo io qua, né a manzana né a sera. E poi Marco, straraffogato ti sei. Via. Cavoli, cavolfiori con olive e würstel, fatti in rosso, no? Guardate buoni, caspita. Poi mi sono fatta la scarpetta col pane. Buono, buono, sì, cavoli, ma al sugo o in bianco? Rigorosamente al sugo. E cosa, Marco? Cavolfiori al sugo, insomma in rosso, con olive verdi snocciolate e würstel tagliate a pezzettini. Ma ci va tu l'uva sotto lo spirito acqua vite, cazzo, ma invece vado alla concetta per la gola, poverina, ma di lusso sui figli, due barattoli l'acqua. Buona quella, come quella della Fabri che vendono pronta, l'uva sotto spirito, buona. Ma ogni abruzione d'uva, mezzo maturo, ma tu li devi vedere. Quando vieni te li faccio assaggiare, poi l'acqua vite è leggera, non è di quella forte forte, buona. E se ci devono aprire, glielo dato perché c'ha Rausini, e ho detto, magna di lui di chi si è subito di spirito. Ma lo sai a chi si è fatto umano? A chi si è gonfiato dall'alcol? Ega. Tu il coso, l'uva. No, erano gli a mani così, se tu li vedi che ha una bubbiocca, da sushi. Ma non è che con due chicchi d'uva già ti sbronzano. Oh, adesso mi hai ricordato quello di Cagliari. Ah, Marco, quello di Cagliari dell'uva, la sai tu? No. È che la madre era molto colta, no? Molto intellettuale. E sono andati a casa di altre persone. E questo bambino ha visto l'uva, no? E subito si è rivolto alla mamma, capito? Mamma, mamma, me lo dai un pippione d'uva? Figlio mio, non si dice pippione d'uva, se fai da bravo mamma te ne dà un botrone. No, da tradurre in italiano. Allora, un botrone è lo grappolo, e lo pippione è l'acino. Eia, è tutta qui la barzelletta, no? Ma la barzelletta che cosa vera, no? Capito? La madre è intellettuale, quindi voleva dirglielo, voleva spiegare al figlio che non si diceva pippione, no? Capito? E invece delle no, se fai la prova mamma te ne dà un budrone. Insomma, dai, parlando in dialetto. Oia. Che la vita è forte. Cagliettano è forte, sì. Pistola, casseruola e fucile si dice con L sola. E perché non lo sapevi? Natalì mi ha pagato da gusto. E allora non la li pagare si contai. Il mio cagliettano di colleghi. È uno che l'ho sopportato per 15 anni in macchina, fatti il conto tu. Non applica una parola in italiano. Non c'è niente da fare. E tu come si chiama? Giglio. Io lo chiamo Schettino. Si chiama, ricorda Giglio, io lo chiamo Schettino. Anda lì che ti su uno, due, Schettino uno. E tu ti chiami Schettino, non ti ricordi cosa hai fatto all'isola del Giglio, maledetto. 32 morti hai fatto. Eia. Ma il vero Schettino è in carcere adesso? Penso di sì, l'avevano condannato, o no? E mi pare pure in via definitiva. Che io sappia, dice, lì si dovevano aprire le porte del carcere. Sarà lì, mi di nuovo la pioggia, mi. E anche quando scaricando di nuovo, cazzo. Invece hanno, penso che abbiano condannato quel commilitone che ha ammazzato quella coppia, quel militare con la ragazza. Eia, invece non hanno più, allora non hanno più parlato di quei due militari in India che hanno ammazzato uno del peschereccio per sbaglio, per dolo, come vogliamo dire, non ne hanno più parlato. Ah, quei due fucilieri, ma mi sembra che uno è malato forte, uno è rientrato in Italia, mi pare, o non so se l'avevano rimandato, ma non penso, penso che siano tutti e due in Italia. Eia, che cubi erano 7,62 per 39, l'avevo detto io l'ho visto da già, come avevano fatto vedere l'imbarcazione, su chi sei Kalashnikov, i nostri soldati non ne hanno di quel calibro. Ma 7,62 nato, il buco è lo stesso, mi. A meno che non abbiano fatto vedere i boccioli pure. Dopo hanno scoperto che era 7,62. Siccome hanno 223 Remington nei nostri, sono molto più piccoli. I furi erano larghi, non erano stretti come il 223. Ah, è vero che i militari nostri ormai hanno il 223, il 556, dai. E come lo puoi chiamare, il 223 Remington, eh? 56 nato. Sì, ma galai parati a questi due cinesi. Loro stavano contrabbandando, deve essere gli hanno inseguiti le motovedette del paese vicino e li hanno sparati col Kalashnikov. Quindi non sono i nostri fucilieri di marina per li uccisi. Ma come si fa a fare un errore madornale del genere, cazzo? Cioè lì ti sono condannati a morire. È una soldi, infatti, no. Sono tutti e due in Italia, solo che uno cazzo è malandumato. Infatti già dal calibro dovevano escludere i militari nostri. E stava male, non so cosa c'ha, poveretto. Sembra che ha un tumore, qualcosa del genere. sul giornale di quella ragazza di Porto Torres che è stata rapinata, no? E due giorni dopo si è suicidata. E non è chiara la cosa, poveretta, 22 anni, di Porto Torres, o almeno è successo a Porto Torres. Sì, sì, sì, è l'amica dei miei nipoti, viene a fratello. E lì non è chiaro, no, perché secondo me c'è qualche altra cosa sotto, o si è suicidata per la vergogna, ma di che cosa può succedere una cosa del genere? Poi parlavo con mia moglie, una stuprata, qualcosa è successo, non lo so. E lei è andata alla Maddalena a casa di questa amica a rilassarsi, per non pensarci, e lì si è ammazzata la Maddalena. A meno che non fosse una finta rapina. E Dippio l'abbia detto, magari c'era qualcosa dietro. Dammi i soldi, simuliamo una rapina, se no svelo qualcosa che ti riguarda. Che ne so, tutto è possibile. Ma l'hanno addormentata. E lì quando si è svegliata c'aveva ematomi in faccia, nel collo, nelle braccia. Quindi per me, mentre lei era addormentata, si hanno ciullata. Sta fatto, mi si è ammazzata da 22 anni. Tutti i manieri se ne sta sentendo, guarda, una cosa allucinante. Boh, non è lo shock della rapina, come hai detto tu, forse il pestaggio, boh. Sì, ma una per quanto scioccata, addirittura a suicidarsi. Vabbè, lo c'era qualcosa sotto, non si sa. Ma mi ritrovo a dire già forse, era preso una cattura a superare. E un trauma. Ma non l'ha stuprata, l'ha solo menata, è rapinata, così è. Non si sa, questi mattoni che aveva nel corpo, soprattutto nelle braccia, può essere fattibile che sia successa una cosa del genere, capito? Perché lei è scappata da Porto, è andata via. Boh, poveretta. Sul giornale non c'era nessuna ragazza di 22 anni ai necrologi, oggi no, e ieri nemmeno, è morta ieri, com'è possibile? Ma i genitori non hanno voluto, capito, parlare, perché c'è sicuramente qualcosa sotto, ma già mi drumito c'è, proprio, non mi sono abbassato lo piano, si è drumito. Sai cos'è? Questo tempo invoglia a stare sotto le coperte, sa, a rilassarsi. Si era dormito, come dice. No, sono dormito, non era al telefono, scusate, ma mi hanno chiamato, c'era il telefono. Poi mi sta peggiorando questa cosa, sai che fa. Cazzo già, ha iniziato a piovere. Non è quello il problema, senti, invece non vedi che non pubblichi. Infatti ci do viola. Ma fate controllare se c'è qualche microfrattura, è peggio. Vediamo un pochino, aspetta un altro po', invece ci scoppia, non è così, no? Sai che non è così, no? Provo a mettergli il ghiaccio, anche se c'è la borsa di ghiaccio, quella. Se non una busta qualcosa con ghiaccio vento, mettiglielo. Non vedere, perché se si è fatto nero un casino. Sì, magari solo ematomami. Si spera che sia solo ematoma e non rottura di qualcosa. No, già, vai fatto controllare, c'è tutte le dita gonfie, il piede è tutto gonfio. Sei uscito. No, scusate, ho sbagliato io. Stavo misurando le stazionarie. Se vuoi vedi un pochino, ci sono 1,5. Perché sta proprio l'antenna è completamente bagnata fuori. 1,5. Poi quando si asciuga spariscono. Sì, ma la lingua era allucinante, 2 di stazionarie, 2,5. Proprio un'antennaccia proprio che vale 38 euro. Anzi, sì, a Giuseppe, porca miseria. Dire dovevano metterle il cavo, abbassare l'antenna, mi sicuramente non ce l'hanno fatta, non mi ha chiamato. Cosa 67, non lo devo rimettere. Con voi, io sono libero tutte le mattine, tutto il giorno, non ho mai problemi, non ho mai. C'ho il trappolo, c'ho tutto, se devi fare il buco si fa, c'ho anche la, come si chiama, la punta con la carotatrice attaccata. CB, VHF, VHF, capito? Basta dirlo e si va a vedere. E intanto il posto già ce l'ho, andiamo in garage, lo facciamo. In garage, sali qua, ci mettiamo sotto il porticato, non c'è problema. C'è corrente, c'è tutto, non lunga, un tacco, e si fa. Non problem, quando voi fischia. E l'antenna ce l'ho, c'è tutto quanto, l'antenna ce l'ho. L'antenna è nuova, se la fine 107 non va nuova, addirittura c'ho l'attacco ancora nella busta, perché l'attacco su originale non l'ho fatto usata. Meglio così, meglio così si mette e ciccia. Quindi la busta, adesso mi scolgo un dell'ora, del Valverna, che è quello. Mettiamo anche un ombrellone, sempre così tenere io. Ma ti immagini che praticamente, cioè presenterò che c'è la guarnizione, certo l'antenna è partita, la guarnizione si è marcita, ha fatto marcire anche la carrozzeria, nel punto si è portato via tutto, guarnizione, pezzo della carrozzeria, il pezzo che c'è attorno non era finito, era normale, solo quel pezzo dove c'è l'antenna. E quello che porta, il rombellone ci vuole sotto, vabbè magari lì davanti no, lì davanti è molto duro, poi curvato, quindi no, non penso, non te ne va nudo il rombellone, però al centro cappotto ci vuole. No, è meglio che lo metta il rombellone, io ce l'ho davanti. E infatti, quindi lo metterlo, tiene di più la roba, la tali pistola è mia. Come? Il piede che ti ho mandato a pistola. Aspetta che ho il telefono nel però secondo me è meglio che vai a farsi controllare già, eh. Aspetta che prendo il telefono. E infatti, dovrò decidere andare, buona notte, lo devo fare. Porca miseria, infatti non mi fa nulla stanotte, mi dico che sto male domani. Oh, ciao te Dani, non stavo anch'io, non ti va tenuta. Capito? Perché l'altro non te ne fa, non ti trovo niente, dobbiamo andare domani mattina presto. Il sistema meccanico poi vai. No, è gonfio già il piede, è un bel gonfio, anche le dita ce le hai tutte gonfie. E intanto non ci sia qualche microfrattura lì in mezzo, alle dita, dove è tutto nero, e quindi ti sei gonfiato per quello. È andato il colpo al lato del piede, bravo, al lato. Il colpo l'ho preso al lato del piede, perché ho fatto retromarcia, sai che ho fatto un colpo qui. Ho premuto un po' di più, deve essere, boom, ma ha dato il colpo lì. Come hanno messo la parte in terra? Quelli con la moto usata fanno la stessa fine, quando fanno retromarcia che trovano qualche zona di terra che si blocca la coda e li fa cadere in terra e li va sotto la moto usata. A me, un mio amico che lavora in operatoria, mi ha detto che ha visto un tipo che era stato mangiato la moto usata davanti al nipote di 4 anni, immagino. Un casino. Anche tu hai il piede gonfio. Non vai? Vedete che oggi tu articolo addennato. Allucinante. Ma qua c'è la frattura. Ti sciuga. Lì che mi ha mandato. Massimiliano. Guarda questo. Guarda questo di Massimiliano. Oh, non siete pazzi. Ma non andate a farvi controllare. Boh. Cioè. Una cosa. Massimiliano. E la stessa Massimiliano, e non che va pure il collo del piede, oltre che tutto il piede, il collo. E cosa è successo a Massimiliano? Cosa già? Ha detto Gianni, cosa gli è successo a Massimiliano? Tu mi ha detto che ha giunto a ricari. Allora, siccome io ho il piede sinistro, lui c'è il destro, mi pare che a me mi pare pronto soccorso un preopedale da arrivare. Minchia, ma è messo male quello di Massi, eh. Ma non una santa capovolta in gonfio. E sciuga, boh. Mamma mia, mamma mia. questo è un colpo a vero, eh. Solo che a Massimo Italia uno ce l'ha buono, invece non c'è manco uno buono, uno è l'altro. E poi c'è anche il polpaccio, tutto, è tutto gonfio, tutto fesso, tutto incasinato. Allora io voglio dire una cosa, che con gli ematomi non c'è da scherzare, perché io ho avuto un ematoma e poi sono dovuto essere operato, mi facevo le iniezioni pericellina, 4 iniezioni al giorno e non riuscivo a debellare l'ematoma, l'hanno praticamente dovuto operare e insomma un sacco di cazzate. Prima il dottore mi ha detto basta che metti questa pomata ti passi. Che mi si è formato a livello lombare, io ho caduto adesso dalle scale, sono scivolato in un giorno di pioggia, sono andato in via Cavita a Pastore da portare roba a mia sorella, che abita lì, dove c'era la pizzeria di Coco, lì dentro, di Coca Vita, di fronte al turismato, di fronte ai granati. Beh, fatto sta che mamma mi aveva detto, mi portano questi giornali a stasera, ci scambiamo i giornali, quindi li dovete comprare oggi, se la cosa va vera e così si scambiavano i giornali per non comprare gli stessi giornali, capito? Così leggeva uno e l'altro, se li scambiava e glielo avevo portato. Poi stavo scendendo 3 gradini, sono scivolato e sbattuto la schiena, non riuscivo manco a respirare, mi sono adagiato sulla macchina, me lo ricordo come se fossi lui, stava piovendo a dirotto, cazzo adagiato sulla macchina, non riuscivo manco a respirare, sono riuscito a entrare a lavorare e mi ha cognato mezzo, dopo una sedia a sedirmi, come dire che non andavo per la montagna, no? Allora ho preso, mi ha alzato la maglietta e gli ho fatto vedere mano anche a me, che cos'è questa cosa, cosa è successo? Sono caduto dalle scale, non ce la faccio manco a camminare, allora fatene a casa, fatti vedere, fatti controllare, se dovessi a lavorare così. Mi ha mandato a casa e il dottore mio mi aveva detto, non quello che c'è adesso, è il dottore che buffiva, e te in 15 giorni ti passa questa cosa, ti metti questa pomata, capito che si faceva viola, giallo, tutti i colori. Un giorno sono andato a fare subito ambulanza, e sono andato a fare un'urgenza, sono arrivato a portare il soccorso, ho detto dottor Carta, mi può controllare la gamba, e cosa è successo già? Sono tornato alle scale per vedere, subito il colpo, sono per la furia, cazzo, ha provato a entrare la siringa e si era coagulato nel bersaglio. Cazzo, ma l'ho operato e mi ha detto che sembrava di sgozzare una persona morta, di fare una persona morta da tanto tempo. C'era una mamma che ha detto che non si poteva battere sempre in spinato. Glielo dico, ma Tomà è sempre presto. Cosa devi fare? Tu, vabbè, io provo a portare il cane, adesso non sta piovendo, raga. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Vai Marco. D'accordo. Vai Natalì, che sei in bianco da un po', dai. Ma mi sa che vado anche io a portare il cane. Oh già, cliccaci sopra quella foto di Massimiliano. Guardala bene, guarda cosa c'ha. A me butti su Claudia. Dardo, che cazzo, stavo prendendo la macchina, te ce l'ho trovato. Cani morto, che non sei altro. Ah, tu mi combinare che sei gocci. Gesù Maria, grazie. Tu hai fatto vedere la chiama, tu la macchina la ci ha fatto. Poi adesso prendo la macchina e vado a trovarlo. Qui mi ha mandato un magagliolo. E te varia un coso, te varia, che. E infatti quello era. Devo chiudere in fretta, ciao. Perché? Però. Ma mi sembra uguale a qualche cosa che ho visto. E invece era quello. Che non entrava con tutta. Arrivi tu, adesso mi fai fare anch'io e va a vedere un mangagliolo, te lo chiedo la cazzosa. E che mangagliolo, questa è la propulsione per fare. Si farà culo, che è allucinante. Marco, sto chiudendo, sicuramente stai andando in bagno. Io sto immaginando, quella cosa è in posizione retta. No, ma lo sai cos'è, mi ha fatto ridere già. Che poche parole mi ha detto, no, andiamo assieme perché io c'ho il sinistro, lui c'ha il destro. Bastardo. Però io prestando queste immagini qui mi ricordavo di averla già vista. Poi quando Claudio mi ha detto cliccaci sopra, allora avevo piangato. Come poi voi giocate a WhatsApp, io no, ho visto, quindi questa foto l'ho vista. Massimiliano c'ha il divano rosso, ho visto questa cosa appoggiata nel divano, ha detto non può essere, cazzo, adesso dalle scale sono caduto, dalle scale si è caduto. Ci mai detto che i travaglieri, ma qui l'ho pensato adesso, capito? Ho pensato adesso che era caduto le scale. Cioè, la pioggia, lui è mezzo rincoglionito. E invece che mira un goccio, l'hai voluto in andare. Sì, grazie, è ruola, vedendo io. No, anche perché poi gli ho detto, no, claro, no, nessun messaggio, gli ho mandato un messaggio, c'ho le radio accese, ma sono nel divano, non posso camminare. Come fai tu, mi fai sempre a pezzi, no? Tu, vabbè, no, non ci vuoi fare. Veramente avete mandato un messaggio, ho comprato una radio nuova. Ho detto, vai, ci mettono per comprarvi. No, ho comprato la radio da tu. E mandamela a vedere, la giudice già, mandamela a vedere. Mettila sotto il tavolino insieme agli altri e mandamela a vedere la radio che hai comprato. E mi manda il tuo fondo di guru, già, allucinante. Ho un cane morto, me ne combina in tutti i colori qua. Sempre che non fosse più un maschio. Era di carriera, di femmina. Era Romeo. Era il mio. Sì, me ne combina in tutti i colori. In tutti i colori me ne combina. Sì, sì. Un giorno lo stesso mi ha mandato un messaggio vocale su WhatsApp. Ha diratto. Solo dico che cosa, dico a me, mi hai dato, capito? Grazie, io sono quello. Ma signora, che cosa? Fammi capire, non ho fatto niente, non so niente. Cosa è successo? Non mi rispondeva più. Avete detto, mi ha mandato un altro gatto bisciato, bisciato. Cioè, rivendo come pazzi. Ma cosa da fare, sono? Era un passatempo. Detto passatempo? Ah, io dovrebbe trovare i passatempi. Io, boh. Cioè, mia moglie qua, cosa è successo, ma signora? Ah, io qui non ho fatto niente. Ma gli hai fatto vedere, ha aperto la foto. Gli ho fatto vedere la matata in varia. Ma ha detto, se ce l'avevi così tu, era diverso. No, a me, la mia era la testa in su, non la testa in giù. La metà di quella, però. Quello ha i bidoni del latte, ma era una cosa. Avevo una bisogno di mucca. Io. Va bene, signore, dai, io inizio a fare qualcosa, quasi no. Sta iniziando un po' lì a primi la pittorra. Io sotto due in bagno, quando ci bevi. Lasciami. Ma io no, ma dai, mia Pippo, e cosa? Mamma mia, sei contenta. Io, già pronto, mi? Dai, vado a portare il cane già, visto che non sta piovendo. Marco ha detto che sicuramente mi è giunto qualche cuscio. È andato in bagno. Ti lascio un Natalino, ci sentiamo dopo, ok? Sì, la vacca già c'è porticata, facciamo più bagno, già si è fortunato. Io già mi bagno, ma tu no. E io rimetto il coso sempre, giù un po'. Impermeabile. Oh, io vi lascio un secondo, momentaneamente vi saluto. Da lì dentro dopo, Ciao Massimiliano, ci sentiamo. Andate bene. Marco! Ciao Massimi, un bacio a Daniele e a Gaia, vai a dopo se coincide. No, già, nel porticato le posso far fare la pipì, se fa la cacca me ne faccio fare, mamma così che sono i giardini lì, tutti quelli puliti e ordinati. Se lo porto nel mezzo all'erba mi bagno io, no, non devo occupare di botti vecchi, cosa ci di qua. Va bene, vado, ci sentiamo dopo. Ciao ciao. Avanti, Marco. Ehi, vabbè, qua va bruciato mia zia, capito? Ci mette subito al baracchino, non si sa mai. No, è passata e è andata via, ci ha lasciato una cosa andata via, dai. Chiudo un attimo anch'io, dai, un attimino, devo fare roba, dai. Vabbè, ci sentiamo, ciao. Ma Natalino ci sei? Ma madre, tu ti puccia, tu? Ma hai visto che è Natalino? Natalino? Ho dato giù il cuscio. Oh, vabbè, io stavo andando a far roba. Natalino non ha più disposto, Gianni gli stava chiedendo roba. Dai, ci sentiamo domani, per oggi. È arrivato il ciclone, me. Vabbè, ci sentiamo domani. domani non ci sono perché lo farà sempre, se Dio vuole. Ma cioè durante la settimana ti fanno fare mattina, sera, sera, mattina, così è? Cioè, devo fare questa settimana, va bene, una sola di sera, perché dentro di sera, ci sarebbe domani, ma ti ho chiesto di darmi il cambio e fare la sera dopo domani, perché devo arrivare mia figlia, devo andare a prendere l'aeroporto, sempre che il piede non consenta. E ho chiesto il cambio a un collega e mi dà il cambio, faccio la sera e la mattina. Claudio, te suoi, ci sei ancora? Vabbè, era passata mia zia a me, darmi una cosa, adesso devo venire, forse da domani in poi, aiutarci a buttare i vecchi televisori, roba, mettere un po' a posto questo cesso. Perché siamo degli sconsiderati tutti e due, io e mamma, soprattutto mamma, ecco, vai, dai, va bene, a domani dai, no, e se mi fa, se non sono occupato, mi sa no, sarò occupato per vari giorni, dai, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao, fate rispettare, ti è rimasto, mamma. Ciao, ciao. Morti, tutti mangiando, state!